Il problema della parità. Dall'osservazione della realtà si deve dedurre che la natura umana sia stata ordinata dal suo creatore in maniera che la differenza tra gli uomini faccia parte dell'ordine naturale delle cose. La differenza è fattore propulsivo della vita, in quanto è dalla differenza che nasce lo sforzo per il miglioramento. Le ideologie che vogliono imporre artificiose parità, anche nel campo economico, sono irrealistiche e quindi destinate al fallimento. La parità garantita dall'ordinamento islamico è quella che ogni individuo, per assicurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere i più alti livelli di benessere nell'obbedienza al codice di vita islamico, abbia tutte le opportunità di far valere le proprie capacità. L'ordinamento islamico favorisce pertanto l'iniziativa privata e non riconosce nel suo corpo sociale posizioni di privilegio. Sono estranei all'ordinamento islamico tutti gli schemi tendenti ad imporre una disparità innaturale. Lo Stato islamocratico, che fonda il suo ordine economico su una base naturale, consente a tutti uguali opportunità di iniziativa privata e di libera imprenditoria. Le leggi economiche dell'Islam sono tali da premiare l'iniziativa e penalizzare l'inerzia.